Voglio salutare il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Buongiorno e ben ritrovato, Buongiorno, sindaco. buongiorno. Senta, dovesse raccontare a un ragazzo di 20 anni chi ha ucciso Paolo Borsellino, né? Gli direbbe che è stato ucciso dalla mafia o dalla mafia e dallo Stato? Beh, direi sicuramente che è stato ucciso da un sistema di potere nel quale c'era anche la mafia. Purtroppo l'omicidio di Paolo Borsellino e degli uomini di scorta è uno dei momenti più bui della storia della nostra Repubblica, perché segna una saldatura certa tra uomini dello Stato e uomini della mafia. Mai come in quel periodo la mafia aveva il volto dello Stato. Ecco la ragione per la quale oggi ricordare Paolo Borsellino è ricordare una persona normale, straordinariamente normale, un palermitano orgoglioso di essere palermitano, un magistrato che faceva il proprio dovere senza badare ai rischi e senza le preoccupazioni di mettere a repentaglio la propria vita, un uomo di valori, un uomo di fede. Ebbene, questa persona straordinariamente normale è stata uccisa da un meccanismo perverso che ha messo insieme Stato e mafia. Però su questa saldatura e sulla presunta anche trattativa, ancora non c'è una parola fine dopo 20 anni. Le sembra normale questo? Io Qualcuno mette in sono dubbio che ci sia stata effettivamente questa trattativa? un cittadino, sono un uomo libero, sono uno che pensa. Io non ho né prove né indizi, ma sono sicuro che quella trattativa c'è stata. Non ho prove né indizi, ma sono sicuro che Paolo Borsellino viene ucciso perché si sarebbe opposto a quella trattativa. Spetta ai magistrati trovare le prove e gli indizi e spetta a tutti noi consentire ai magistrati di lavorare serenamente per fare luce su una delle pagine più buie della storia della nostra Repubblica, che rischia di sommarsi ai tanti misteri, a partire da Portella della Ginestra, la terribile strage del 46. Ma tra l'altro misteri che continuano, io non so se l'ha già avuto modo di vedere i giornali. Oggi Repubblica scrive che Vincenzo Scarantino, l'uomo che si è pentito e che si è accusato in maniera sbagliata, misteriosamente, dell'attentato di Via D'Amelio, e poi in realtà un altro pentito, Spatuzza, ha detto no, non è stato lui, è scomparso da 15 giorni, non si sa più dove sia. Era un uomo libero in questo momento e la procura lo sta cercando. Insomma, misteri su misteri, è l'Italia dei misteri con questa, con Ma questa. misteri su misteri a distanza di 20 anni, se è vero come io sono convinto e come i magistrati hanno il compito di trovare le prove e gli indizi, sono convinto che uomini delle istituzioni a livelli più alti sono stati coinvolti in questa vicenda, è evidente che non è un problema soltanto giudiziario, e tanto basterebbe perché fosse drammatica la mancanza di verità giudiziaria, ma è un problema di democrazia, perché come si fa a vivere in un paese nel quale pesa come un macigno l'ombra della compromissione di uomini delle istituzioni con il crimine Però organizzato? le chiedo direttamente, su questa vicenda della trattativa Stato-mafia, lei sta in quelle polemiche di questi giorni con la Procura di Palermo o con il Quirinale che dice anche indirettamente non si può intercettare il capo dello Stato? Io sto assolutamente con la Procura della Repubblica e sarebbe bello se il Quirinale, dopo aver affermato una questione di principio, avesse contemporaneamente invitato i pubblici ministeri di Palermo e Caltanissetta ad andare Ma questi PM non sono anche un po' politicizzati? avanti. No, questi PM fanno il loro dovere. Il dramma vero è che la politica, che non ha emarginato quanti uomini e istituzioni sono coinvolti, per cui noi carichiamo i magistrati di un compito che non è loro. La realtà che è politica la mancanza di tensione etica che trasforma i magistrati, ovviamente gli dà un ruolo che diventa politico, cerco di spiegarmi, ma occorre aspettare un processo, inizio un processo perché uomini delle istituzioni ricordino quello che hanno fatto. È ammissibile che soltanto dopo 20 anni e soltanto dopo l'inizio di un processo uomini delle istituzioni, parlo di ministri, parlo di persone di altissimo livello, si ricordino di quello che è accaduto 20 anni fa. Ecco, io credo che ci sia una mancanza della politica, una mancanza di tensione etica nella politica che assegna alla fine ai magistrati un compito superiore a quelle che sono le proprie competenze. Allora voglio dire, occorre aspettare il giudicato per immaginare un politico che frequenti i mafiosi. Sì. A prescindere dal fatto che frequentare i mafiosi sia un reato o non sia un reato, la politica dovrebbe emarginare il politico che frequenti i mafiosi. E E invece siamo tutti lì a dire aspettiamo con fiducia l'esito del processo. Ma quale aspettare con fiducia l'esito del processo? Comunque lei in questa... anche se non ha commesso un reato mai immaginato. Non ho immaginato. Comunque lei in questa vicenda sta dalla parte della Procura di Palermo, dice si stanno muovendo, fanno le indagini in maniera corretta. Io sono dalla parte dei magistrati che cercano la giustizia e insisto, sarebbe molto bello se a 20 anni da quelle terribili stragi venisse dal Quirinale un invito molto forte ai magistrati ad andare avanti senza fermarsi davanti anche ai potenti, prepotenti di ieri e di oggi. Senta, lei non ha mai vissuto, credo un po' di sì, un travaglio anche interiore, perché negli anni 90 lei attaccò pubblicamente il giudice Falcone, in questo caso in varie vicende, accusandolo anche di tenere nel cassetto dei documenti sui delitti eccellenti. La ringrazio per questa domanda perché mi consente di ribadire che un conto è il compito del politico che ha il dovere di denunciare anche senza prove e indizi, un conto è il compito del politico che ha il dovere di allontanarsi a prescindere dal fatto che la persona da cui si allontana abbia commesso o meno un reato, altro è il compito del magistrato che non può agire senza avere le prove, senza avere gli indizi, senza avere riscontri processuali. Allora io ho fatto ieri, come oggi, come farò sempre la mia parte, anche senza prove e senza indizi, continuerò a ripetere 20 anni fa come oggi che la mafia a Palermo, in Italia, ha assunto tante volte il volto dello Stato. Non ho prove, non ho indizi, ma ritengo doveroso fare questa affermazione e chiedere ai magistrati che fino in fondo accertino se questo rapporto tra Stato e mafia configura l'ipotesi di reato. Questo sì, però il fatto che io gli ho chiesto è sulla questione di Giovanni Falcone, cioè se non sente in qualche modo anche un peso per alcune dichiarazioni che ha fatto in passato. Al di là dei toni che sono certamente legati al contesto, io ieri come oggi ho fatto e farò e farei la stessa parte, continuerei a chiedere verità e giustizia rispettando il lavoro dei magistrati che ovviamente hanno le mani legate perché possono agire soltanto se hanno prove e indizi, ma se non ci fosse la politica, la società civile che denuncia, come farebbero i magistrati ad avere un contesto favorevole per fare il proprio dovere? Le ultime due domande sono sul senatore Dell'Utri, ancora sotto indagine. Ecco, l'accusa dice, pare Berlusconi, è partita nuovamente la caccia all'uomo. È credibile che Dell'Utri abbia fatto un'estorsione ai danni di Berlusconi? Ma guardi, quando si parla di personaggi come Dell'Utri tutto è verosimile. Per quanto mi riguarda lo considero credibile. Per quanto riguarda l'accusa, che sia credibile, aspetta ai magistrati accertarlo. Cioè, credibile l'accusa? Credibile è credibile l'accusa, ovviamente, poi se è fondata o non è fondata, saranno i magistrati a stabilire. Questo sì, ma di Dell'Utri lei che pensa? Beh, qualcosa ci ha già detto conoscendo. Di Dell'Utri e della vicenda giudiziaria, non ho capito. Se vuole, dico che penso tutto il male possibile, sono libero di pensare, no? Pensa tutto il male possibile, sì, certo è libero di pensare quello che crede, pensa tutto il male possibile di Dell'Utri. Infine, noi parleremo tra poco, tra l'altro ci sarà il vicepresidente della Sicilia, Russo, direttore di Libero, Belpietro, per parlare del cosiddetto presunto crack della Sicilia, oppure no. Lei teme qualcosa, per esempio che non ci siano i soldi per pagare i dipendenti del comune di Palermo come crack, come possibile crack della regione, oppure si sta esagerando? Il comune di Palermo è sostanzialmente in una condizione di default. Io ho trovato appena eletto un'amministrazione allo sfascio, un bilancio fallimentare. Stiamo facendo ogni sforzo per evitare che ci sia questo crack, che non sarebbe soltanto il fallimento finanziario dell'amministrazione comunale, ma rischierebbe di essere il fallimento economico della città. Io sono molto preoccupato, perché se a questo disagio sociale non si dà una risposta adeguata, c'è il rischio che la mafia si colleghi al disagio sociale e c'è il rischio di una vera e propria guerra civile. Ecco perché abbiamo chiesto al governo Monti di seguire con attenzione la vicenda di Palermo e di non girarsi dall'altra parte. Non si può caricare sui palermitani, meno che mai su una nuova amministrazione appena eletta, responsabilità di 10 anni di sprechi, di ruberie. Io credo che se il governo nazionale presta attenzione alla vicenda palermitana come a quella siciliana, emarginando e applicando tutte le sanzioni possibili nei confronti di chi ha sbagliato, ma non facendo pagare alla città e alla comunità i guasti di amministratori che per quanto riguarda Palermo sono andati via, per quanto riguarda la regione siciliana purtroppo sono ancora in carica con il colpevole sostegno del Partito Democratico. Ma lei lo commissarierebbe per esempio l'intera regione o la vedrebbe come un gesto esagerato? Per fortuna esiste la democrazia. e io vorrei tanto che il Partito Democratico togliesse il sostegno a Lombardo. Dov'è Bersani? Dove è stato Bersani in questi anni, quando il suo partito in Sicilia sosteneva Lombardo?